compie opere in tutto l'universo. Il rombo del tuono in Oriente non si placa, fa tremare tutti i credi e tutte le sette. È la voce di Dio che riporta tutti al presente. Ciò che gli vuole realizzare.